5C. Ascolta e rispondi. 1. Che cosa comunicherai alla signora? Le comunicherò l'esito dell'esame. A chi comunicherai l'esito dell'esame? Lo comunicherò alla signora. Comunicherai alla signora l'esito dell'esame? Sì, glielo comunicherò. 2. Che cosa concederai alla cliente? Le concederò un prestito. A chi concederai un prestito? Lo concederò alla cliente. Concederai alla cliente un prestito? Sì, glielo concederò. 3. Che cosa regalerai alla nonna? Le regalerò un vestito. A chi regalerai un vestito? Lo regalerò alla nonna. Regalerai alla nonna un vestito? Sì, glielo regalerò. 4. Che cosa illustrerai alla signora? Le illustrerò il programma. A chi illustrerai il programma? Lo illustrerò alla signora. Illustrerai alla signora il programma? Sì, glielo illustrerò.